Ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Marsi e Enzino, alla regia e conduzione tecnica Simone. One, one, one. Giovedì 4 dicembre, un giovedì che più 4 dicembre non è possibile. Guarda, ho aspettato tutto l'anno, caro Enzo, per avere un giovedì che venisse dicembre. Di 4 di dicembre. Questa è Piazza Alta, ma permetteteci, poi andiamo col primo brano, di salutare gli amici che ci hanno anticipato. Paolo veramente. E Maria, una sorpresa anche per noi. Al quale mandiamo un saluto proprio caloroso. E sarà bello condividere tutti i giovedì da qui all'infinito con loro. E via sì. Parlando e dicendo. Salutando con la mano. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao simpatici ciao, amici. Ciao, ciao, ciao. Buon ascolto. La musica che mi piace, tu sei. La musica che mi piace, tu yeah. La musica che mi piace, tu sei. La musica che mi piace, la mezza personale. E c'è chi fuma fuori dal locale. Se parti in basso la batteria, mi metti con la sera, sei andata via, da me. La solita bevuta, la solita battuta, vomito sul bancone e l'occhio sul bordone. Ma continua a parlare e fai finta di non guardare. Quella là, una signora provocante, decisamente spudorata. E se t'ave donne mutande, dalla gonna leopardata, vestita da sedicenne, solo più matura. Una leonessa quarantenne, in cerca di avventura. E ci sta bene la signora, categoria me. Sulla colonna sonora, categoria punk. This is the music, hey, hey. This is the music I'd like to funk. This is the music, hey, hey. This is the music. Non penso una sicura, la gente su de palla e vuole fare chiusura. No, no, no, no, no, no, no, no. Guardati bene dalle granny, le signorine di svariati anni. Guardati bene dal pop e dall'indie. Se ti piace questo funky, oh, sexy, sexy bit. Si muove bene sopra il funky bit. Inconfondibilmente poi non mi ricorda Sabrina Salerno, la fede. Si distingue tra la borda, una donna esperta, una che porta almeno la quarta. Ecco la mia fatona, ironica matrona. E non è più di primo pelo, no. Ma te lo giuro, fa sul serio. Quando entra in scena con Stivale Berzoma, è proprio quello che ci piace, sì. Come persona un po' mi piace, sì. Sono sicuro di sì. Categoria me, adesso suona qui. Categoria funk. This is the music, hey, hey. This is the music I'd like to funk. This is the music, hey, hey. This is the music I'd like to funk. This is the music, hey, hey. This is the music I'd like to funk. This is the music, hey, hey. Elefunk, cari miei amici, incredibile. Hai visto dal loro ultimo album MILF? Questo è l'omonimo MILF, che vuol dire Marzi, perché io già ti capisco. Acronimo è un acronimo che vuol dire volendo. Music I'd like to funk. Yes, no, ma io volevo. Yes. Stavo stavo facendo una semplice riflessione che tu non avrai seguito, ma la scorsa settimana che abbiamo ospitato qui la pallavolo di Foiano, sì? I risultati della settimana scorsa sono stati abbastanza positivi. Sì. Io ti ringrazio perché il tempismo e quindi vuol dire che forse portiamo anche bene gli Elefunk che noi abbiamo ospitato nella scorsa stagione e di cui abbiamo appena ascoltato una canzone. Insomma, ti sono piaciuti, hai visto Max? Sì. Allora, meno male, via, non è poco. Ma dopo le castagne e il Vinsanto, vi invito ad ascoltare tutta la puntata, ovviamente per le castronerie che diciamo io e Marzi, ma perché l'argomento sarà molto interessante e tra poco andiamo a presentarlo, ma perché ho davanti a me una scaletta musicale incredibile. Commovente. Ma prima di tutto commovente, quindi ci sarà anche un delitto. C'è un delitto perché c'è il movente. Allora, questa è Radio F, questa è Piazza Alta. E non è un caso che ci stiate ascoltando. No, perché vi siete piace lì, bravi. Radio F. E guardate che lo Piazza fate Alta. Di spontanea volontà, nessuno vi sta obbligando. E lo potete fare. Come, Marzi? Sulle frequenze 101.2, yeah. In modulazione di frequenza. Oh, lo sentivo dal 1989. DJ ragazzi. Oppure anche con la tecnologia più avanzata. Avanti. In streaming su www.radiof.it. Senza il risultato. Ho sempre dei dubbi perché qui non ci sono arrivato ancora sullo stato. Poi su da bravo. Potete scaricare, se non l'avete già fatto, l'app. No. L'app pronta, pronta e testata per Apple e Android, esatto. Sul vostro smartphone. Oppure sulla nostra pagina Facebook Piazza Alta, dove domani andremo a postare il podcast, che obvious. Se lo state ascoltando adesso non è più domani ma è ora, ovvio, perché c'è gente che mi ferma e mi dice: sai, stamani mi sono svegliato tardi, era domenica, no, e mi sono ascoltato la vostra trasmissione. C'è gente che ti ferma e ti dice: sposta la macchina perché dai noia. Ma poi non solo, abbiamo anche un canale YouTube dove vedrete le immagini di tutte le nostre puntate, anche di questa. Canale Valdichiana. La voce che avete sentito è quella del nostro ospite Paolo Bernini, per i più lo stregone. Assolutamente. Buonasera Paolo. Buonasera a tutti, ciao. Paolo non è la prima volta che viene a trovarci. Welcome. Ormai è andato a Londra due settimane fa. E ora ostenta quelle tre parole. È stato anche l'acquastrina. Sì, ma quelle già le ostentava già da molto. Di cosa parleremo con Paolo questa sera? Stasera parleremo con Paolo, dillo tu Marcello. Ma io guarda, farei una serata a tema. Sì, ho capito, però diciamolo. A tema libero, nel senso che Paolo, essendo un nostro ammiratore, ma noi soprattutto ammiriamo lui. Di lui. Sono convinto che dandogli un tema abbastanza ampio ci illustrerà. Cercherò di essere più Peppetto, Brasil, sao caffè. Ah, seratona, cercherò di essere più circonciso. No. Allora, questa sera è vero che con Paolo Bernini, detto lo stregone, affronteremo ad ampio raggio la vita. I problemi che affliggono il nostro territorio. Via. Però partiremo da che cosa? Da come si viveva negli anni 50, 60, un po' prima e un po' dopo, in Foiano, nel paese, ma proprio nel centro di Foiano. Ma soprattutto esatto. E lì chi meglio di noi può ospitare qualcuno per raccontare come si viveva in Piazza Alta, che è anche il nome e lo scopo del nostro programma. Ma tutto questo a Frampè. Bravo. Buon ascolto dal 1976. In fondo non mi importa di svoltare. Cosmetic. Cosmetic nelle mani giuste. E il cantante era Maquillage. No, allora, il gruppo era i Cosmetic. Sì. Sto dicendo bene, sì, per sì, me, sì, perché mi confondi te. E il loro nuovo disco è Nomertato, che esce il 16 dicembre. Da qualche giorno già trovate su YouTube il loro primo video. E quindi noi siamo tutti in attesa. Io vedo Simone, al quale mandiamo un saluto. Ciao Simone. Ciao, ciao Enzo, ciao Paolo. Ciao Simone, bravo. Bravo. Hai presente il cacciatore che sta lì a aspettare, scusate, il fagiano che scappa, no? Lui è così, sta su YouTube con le novità. Come esce, con... papam! Papam! Ecco, rilassati un po'. C'ha un capanno multimediale. Hai il capanno multimediale. Ma bando alle ciance. Bando alle ciance questa sera con Paolo Bernini, lo stregone. Ciao di nuovo, presente. Paolo. Parleremo di che cosa? Ora ve lo dico. Parleremo di quello che accadeva. Di come eravamo. Bravo, come eravamo. Di come siamo, lo sappiamo di già. E come saremo, non è detto. Anzi, buio, previsioni buio. Ma quello di cui parleremo questa sera era come eravamo a Foiano 30, 40, 50 anni anche fa. Anche 60, ma però 70. Non a Foiano? Piazza Alta. Attenzione, attenzione. Piazza Alta, al centro da sempre, un'icona dei nostri tempi, teatro naturale della vita di paese, all'ombra della torre civica, il palazzo comunale, la scalinata, il Monte Pio, le logge di vasariana memoria, sotto lo sguardo attento del milite ignoto, la storia di un paese toscano, questa sera a Piazza Alta. Ogni sera meglio! Sei rimasta sola, piangi e non ricordi nulla, scende una lacrima sul tuo bel viso, lentamente, lentamente. Ora sei rimasta sola, cerchi il mio viso tra la folla, forse sulle tue piccole mani stai piangendo il tuo passato, ma domani chissà se tu mi penserai, allora capirai che tutto il mondo eri tu, la tua vita così a niente servirà e tutto intorno a te più triste sembrerà. Ora sei rimasta sola, signori e signori, questa serata va segnata nel calendario perché finalmente stiamo dando una svolta, oltre che con gli argomenti, gli ospiti, anche con la scaletta musicale. L'avrete sicuramente riconosciuta voi degli anni 80, 90 e 100, ma anche 60, 50 e 70. Era Adriano Celentano con Ora sei rimasta sola, 2:20 era la durata. Sì, ma non devi dire tutto. Tratta direttamente dal disco Non mi dir del 1962. La canzone era scritta da Ricky Gianco e Michi Del Prete, vero Simone? Sì. Qui nella versione più celebre cantata da Adriano Celentano. Beh, io signori, questo in due stagioni di Piazza Alta finalmente siamo arrivati. Forse è il brano più intonato, più come dire, più ambientato. Sei emozionato, dobbiamo capire. Perché Simone, io lo definirei il disco errore. Il disco errore. No, a breve pubblicheremo anche la foto dell'abbraccio tra Marci e Simone, dove Marci ringrazia appunto per questo brano. Però se vi è piaciuto questa divagazione, fatecelo sapere. Ci sono i modi, i metodi per farlo. Certamente. Ma finalmente, dopo la commozione, Paolo. Parliamo con Paolo, lo stregone. Cosa si faceva al suono di questa canzone? Così. Si parlava stretti. Sì, stretti, cuore a cuore. E in Piazza Alta? In Piazza Alta queste erano le canzoni che ai ragazzi della mia età, della nostra età, servivano qui sotto le logge a... Si può dire pomiciare? Si deve dire. Se era possibile, perché non mica sempre era possibile. Se non eravate guardati, cioè, c'era da vista. Fare una battaglia grossa. Ma io partirei un pochino più indietro, perché bisogna ricordare ai nostri concittadini, ricordare ai piazzaltini, quelli che c'è rimasto, insomma, cioè, speriamo bene. Sì, fatto i debiti scongiuri. Che Piazza Alta era il centro veramente del paese. In Piazza Alta c'era tutto, meno che i soldi. Ecco, c'era tutto, quindi c'erano le attività, i mezzi per approvvigionarsi. Tutto, per c'era perfino la donnina. La famosa Diega, la donnina. Allora, diciamo questo: che Paolo è un ragazzo di degli anni 40. È un ragazzo degli anni 40. 40, non li dimostra assolutamente. No. Per cui ci racconti proprio cose degli anni. Fine 40, primi 50, da lì in poi. In quel periodo lì mi dicevi fuori onda che c'era veramente tutto in Piazza Alta. In Piazza Alta c'era tutto, c'era allora quattro falegnamerie. Che è incredibile. Incredibile a credere, c'era quattro falegnamerie. L'antitrust avrebbe detto qualcosa. Sì, no, no, perché allora la prima falegnameria, quella di Angeloni Armando, detto Sciabano. Devi dire tutti i soprannomi, anche quelli meno convenienti, Paolo, sì, perché certamente. Fanno parte della cultura popolare. E non... Io dico soprannomi, come ho detto un'altra volta, in senso non dispregiativo, ma di rispetto, proprio per ricordare queste cose. Assolutamente. Qui, che nessuno se ne abbia male, se no me l'aspettate fuori, mi date una fila di legnate. Tra l'altro, facciamo un'altra parentesi, scusami, sì. Perdonami. Paolo nasce fisicamente due numeri civici più qua da dove stiamo trasmettendo. Quattro passi dall'ingresso di Radio Eco. Esatto. Quindi, a che piano però? Quindi chi più di lui? Ultimo piano, Piccionaia. Bene. Sopra di me c'era solo i Tegolini. Quindi godevi sicuramente di aria pulita, aria buona e bella vista. Sì, e bella vista, soprattutto bella vista. Questo ecco, dopo le 11 se magari dare qualche input. Dopo se ne riparla. Allora, ritorniamo, c'erano queste quattro falegnamerie. Sì. Una con Angeloni Armando, detto Sciabano. Poi c'era... L'Ugolini, detto anche Tatone, certo. Uno dei fratelli Ugolini che sono scomparsi, ma che un bel ricordo per loro abbiamo. Poi c'era il maestro, il grande maestro, veramente canzegnato da tutti, che era Remo Beccherini, che aveva la falegnameria sotto l'arco della collegiata. Era lì la falegnameria. Ah, okay. Lì. Addirittura in una di quelle botole ci mettevano i tronchi per segare i tavoloni, perché allora la sega, insomma, era una cosa certo. Un po' rara averla. E poi c'era un altro falegname in via Santissima Trinità, proprio a pochi passi di qua, Nottolini, conosciuto come Cureggia. Quello che è giusto è giusto. No, noi siamo per la salute. Tra l'altro poi qui diciamo sono i soprannomi, quindi facendo cose. Lì era proprio era il borgo che era un po', come si dice, un feudo dei Nottolini, perché lì c'era anche Nottolini, il babbo del nostro carissimo Brindellone. Allora, tra l'altro, poi questa falegnameria si è evoluta, perché oltre a fare quello che poteva fare, quindi aggiustare qualche persiana, non era un falegname così, insomma, i detti tutti, poretto, tutti decorati. Immagino, da falegname. Per addirizzare i chiodi, insomma, eccetera, eccetera. Poi si è evoluto, si è andato un po' al commercio, vendeva anche le casse da morto. Eccoci. Ma quello è un mercato comunque che... Poi, comunque, c'era dei Fabbri, c'erano i Stagnini, c'era un negozio di generi alimentari del Roggi, che lo gestiva la moglie, la famosa Maria Nera, che anche lei abitava qui in via Santissima Trinità, due porte prima di me. Okay. Perché dopo me c'era un altro falegname, Baccheschi, che era una falegname qui, quindi una piccola comunità. C'era tutto, mancava la macelleria, però c'era solo il vecchio Donde che passava con un carretto, zampe e zampini, ossi, ossetti e così via, però i soldi non c'erano, per cui un annusativo. Era un però, passaggio. Però veramente superto. Ascoltandoti, cioè, si ha proprio l'idea di un posto pieno di vita. Pienissimo di vita. Pienissimo, anche pieno di ragazzi, perché i ragazzi in Piazza Alta pullulavano. E infatti, guarda Paolo, questa era la mia domanda che ti volevo fare. Quanti ragazzi eravate? Cioè, negli anni 50, quando ti avevi 10 anni, dai, 8 anni, 10 anni. Eravamo in Piazza Alta una ventina. Solo perché c'è, solo qui del borgo se n'era 12, via Santissima Trinità. Poi in via Ricaso ce n'era altri 7-8, 10. Uh-huh. E poi in via 20 Settembre pochi. No, pochi in cavolo. E c'era Matteo che ne aveva fatto una fila, insomma, c'era tanti, un'infinità. E tra le persone più, come si dice, autorevoli, sì. Autorevoli c'era il compianto Bibi, uh-huh. Bibi Raspanti. Ah, sì, sì, sì, noi, sì, okay. Noi ragazzetti si andava giù sotto le bucacce, c'è un olivo, c'è sempre, si andava a raccattare, prima si cavava la mota, come si sì. dice, no? Poi sotto c'era una specie di argilla, quasi, insomma, ci si divertiva qui in Piazza Alta a fare i bozzetti del carro di bombolo. Beh, badate un po' che così mi commuovi, incredibile. Così mi commuovi. È una cosa da non credere, eppure è così. È veramente bello. Quindi si facevano questi carrettini, poi dopo veniva qualche video. Certo. Noi ragazzetti in cantiere si andava poche volte. Esatto. Io l'unica volta che mi, non solo io, se va io, Sino, Sciro, Franco, Cini, c'era una bella squadra. Andiamo a vedere se si entra in qualche cantiere. Ci siamo presentati dai rustici. Per sbaglio. No, non ci hanno fatto entrare. Ma non entriamo in questa. Devo dire, qui ci potrebbero, no, potremmo, no, sviluppare delle teorie, allora, su questa come cosa. Come avrete sicuramente capito, la serata sarà interessantissima, perché Paolo è pieno di aneddoti che ci racconterà su questi anni, sì, d'oro. Sì, è di fame, ma d'oro. Una fame d'oro, davvero. E allora rimanete con noi, che tra un po' andiamo avanti con Paolo. Sì, sì, buon certo, ascolto. Ci amiamo. uno dei brani preferiti dal nostro ospite Paolo Bernini, detto lo Stregone, ma anche da Marzi, che è sempre più commosso. Veramente. Questi erano i Califfi con Così ti amo, del 1969. E si appalesa sempre di più, veramente, Enzo, l'ingiustizia che facciamo al nostro pubblico nel non fare una ricerca storica di questi brani. Io, ma potrei il culmine per me sarebbe un Giacomo Rondinella dannato. Simone ha detto sì, aspetta, un cenno ha fatto. E tra l'altro pensa che per molti anni il bassista di supporto dei Califfi è stato Edoardo Vianello, un gruppo fiorentino. Si sentiva, si c'era l'appoggio, si sentiva. Allora dobbiamo dire anche che noi sappiamo queste cose, scegliamo questi brani perché ci siamo andati a informare da persone vicine a Paolo. Sì, perché non pensiate che noi veniamo qui il giovedì sera così a caso. Ma proprio perché non veniamo così a caso, non è un caso che abbiamo anche un canale YouTube. Ah, come si chiama il canale YouTube? Piazzata. Ovviamente. Bravo. E per questo ringraziamo Paolo che fa le riprese tutti i giovedì sera, quindi il nostro videomaker. Il nostro camera Paolo, dopo camera. Abbiamo Paolo in camera. Sì, esatto. Dunque, parliamo con un altro Paolo, Paolo Bernini. Parliamo appunto con lo Stregone degli anni che furono in questa piazzalta che, da quanto stiamo iniziando a capire, era totalmente differente. Non tanto in come è fatta, perché bene o male è rimasta quella. Questa sì. Però le mura primarie. Certo. Però nella vita, nel fatto che Piazzalta era veramente un centro fervente di attività. E io sono curioso di sapere una cosa. Siccome ha detto Paolo che c'erano tanti ragazzi, tanti giovani che vivevano in Piazzalta e nei vari borghi, ecco, c'erano anche un po' delle ostilità, degli accordi, cioè quelli di Santissima Trinità con quelli di 20 settembre, la intendevano? No, Piazzalta era Piazzalta, punto e basta, il punto di ritrovo era sotto le logge. Quindi, di Vasariana memoria. È qui, di lì non si scappa, quindi non c'era assolutamente rivalità fra via 20 Settembre, via Ricasoli e via Santissima Trinità. Ascolta, una domanda posta in due modi, due modi posti in una domanda, non lo so, fai te. Quali erano i giochi più divertenti che facevate su in Piazzalta? E poi, te lo dico dopo, quello dopo. Allora, i giochi... Peccato che hanno cavato le pietre e le hanno rimesse, ma non erano più quelle di prima, ecco. Perché loro avrebbero parlato. La pelle dei ginocchi era rimasta era piena, tutti ginocchi, non c'era un piazzaltino che avesse ginocchi sani, tutti sbucciati. Perché il nostro gioco qual era? I tappini, sì. Quando c'era il famoso Valentini che faceva l'acqua minerale. E lì accanto al Battini, nel borgo lì di dietro, c'aveva, okay, una fabbrica, faceva l'acqua minerale. C'era veramente tutto. Sì. Poi le palline rigorosamente di coccio, che quelle di vetro costavano troppo, i soldi non ci sapevo. Se riusciva a avere qualche pallina di vetro, perché veniva qualcuno da Piazza Bassa, quelli che erano un pochino più, erano le palline di vetro, però qui si spennavano perché ogni pietra c'aveva la subuca, non si sapeva tutto. Per cui si portavano a giocare dove ovviamente si ripulivano. Quindi i giochi preferiti erano quelli. Poi d'estate l'esplosione massima, che era Ringuattaiola. Ringuattaiola è nascondino? Sì, nascondino è una per cosa. Te che no, no, ma infatti, per infatti che hai studiato, no. Piazzalta era Ringuattaiola. Facevo per gli amici a casa, magari dalla Svizzera non lo sanno. Ringuattaiola era una cosa bellissima, anche perché all'epoca in Piazzalta le luci non ce n'erano, c'era tre lampadine agli angoli del comune, sì, due, e una proprio qui sotto le logge. Dopodiché fine, per cui è una pacchia per noi. Ma ascolta, magari non a 10 anni, ma quando era un pochino più su, questo buio e questa Ringuattaiola aiutavano anche gioco, no, ma dopo hanno messo qualche luce in più. Ragazzi, questa però la volpe perde il pelo ma non il vizio, siccome in Piazzalta c'era anche delle ragazze stupende, le migliori ragazze che c'erano. Facciamo dei nomi. Allora non me ne vogliamo più. Tutte belle, però in particolare la Cristina Donati, che era la sorella di Ciro, era senz'altro la più bella. Miss Piazzalta per 3 anni consecutivi. Anche quattro. Poi c'era la Paola Faragli, che era una bella figliola. Poi c'era la Naide Gambini. E insomma, c'era di che godere della vista. Un'altra Paola Fiorentina, così detto, che sarebbe la sorella del famoso. Ma, noi, lasciamo, quindi non eravate solo maschi. Non eravamo solo maschi, non eravamo, e si era anche parecchio gelosi. Sì, quindi nessuno si poteva azzardare, però purtroppo le donne hanno sempre comandato loro. Ma è anche giusto così. No, mica tanto. qualcuno ci sfuggiva, insomma. Ecco, non è che... Una domanda che mi è venuta in mente ora: con tutte queste attività che c'erano in Piazza Alta, voi ragazzi, ragazzini, facevate qualche lavoro tipo da garzone così per raccattare qualche soldo? Rigorosamente sì. Ecco. Allora, d'estate, quando finivano le scuole, tutti, non c'era un ragazzo che fosse stato a trainone. Chi andava a fare trainone è sempre piazzata, sempre. Ma è trainone anche fuori casa. Ma trainone si capisce. C'è chi andava a fare le garzone da barbiere, ok, e c'è chi andava a fare il falegname, certo, uno di questi. Poi c'è chi andava a fare il meccanico, qualcuno come il Cine e altri andavano dal Palazzi, che giù dove c'è la farmacia, a fare a lavorare a loro lavori. E poi ci si arrangiava, si aspettava sempre che riarrivava la legna, ah, quindi okay, c'era da rimettere la legna nelle case. Però lì c'era sempre una lobby, c'erano i vecchi sì, alpini, eccetera, eccetera. Per fare le barche della legna ci vuole esperienza. Sì, vuol no, ma, no, ma noi si improvvisi, noi si portava solo, capito? Quindi c'era il subappalto. Sì, ecco, voi eri proprio la mano d'opera, la bassa manovalanza. Sì, per i media 50 lire, 100 esatto, lire, insomma, però per noi era. Immaginate, esatto. Abbiamo in serbo ancora tantissime domande e molte e io sono emozionato perché stai per lanciare il prossimo sì, brano. Ma non ti emozionare troppo perché credo che le cose stiano cambiando. Dobbiamo andare in un crescendo rossiniano. Dici che cosa c'è, dici, anzi non ce lo dici, anzi diccelo, va, dici. Ci sono gli Yardbirds che non sono Piazza Altini, sono Piazza Altini. Days that will excite and make you dream of me at night. Come dicono appunto For Your Love degli Yardbirds, io dico velocemente così almeno non si capisce, certo, se lo dico bene oppure difetti, no. Sì. Questo era il 1965, è una delle prime più leggendarie rock band inglesi. Io mi fermerei ma qui. Famosissime, io mi ricordo. Guarda che hanno annoverato fra le proprie file tra i più grandi della storia del rock. Se vuoi te li dico, Eric Clapton. Sì. Lo conosco, almeno Eric Clapton. Sì, si è fatto Jeff Beck e Jimmy Page. un saluto a Edi. Vorrei salutare Edi, Alessandra Ranno e Linda Fatucchi che ci hanno segnalato la loro presenza su web tramite il nostro profilo Facebook. Mamma mia, detta così, che... Ma dal 1976. Me compiaccio, voglio dire. Oh, ma torniamo a Paolo. Paolo, allora, stiamo parlando di Piazza Alta, degli anni che furono, 50, 60, 70, 30, 40, tutto quello che è. Quello che viene in mente. Però ci dicevi fuori onda che hai degli aneddoti da raccontare. Sì, ci sono delle cose. Siamo qui che, e pendiamo dalle tue labbra. Simpaticissime. Ovviamente sempre nel rispetto e nella memoria delle persone che non ci sono più. Ma l'intento è assolutamente questo. Quindi anche se venisse fuori qualche battuta, voglio ribadire perché, no, ma è giusto. Dico anche uscissi da qui, ma restano dopo. No. Ho famiglia ancora. Tra l'altro, a proposito di famiglia, ti anticipo che dopo ci sarà una carrambata per te. Oh, grazie, no, molto, ma non posso dire di più. Va benissimo. Suspense. Allora, c'erano delle persone straordinarie. Penso al famoso Cice. Ma chi era Cice? Allora, per farvi capire qual è la fisionomia, la persona proprio, vi faccio la fotografia. Non me ne voglia il povero Cici, perché tra l'altro, se faccio questa comparazione, lui non era tanto da insomma, d'accordo. Serve per capire, sì, dai. Perché lui in chiesa ha detto, diceva che andava a noi anche il fumo delle candele. Però per farvi capire chi era Cici, voi immaginate a vedere Papa Ratzinger, uguale, spiccicato, la fotocopia. Ed è vero che nel circolo della vita noi abbiamo un sosia perfetto, certo. Lui aveva Papa Racing. Se lo sa, se potrebbe anche arrabbiare, ce l'aveva con i tedeschi, poi con la chiesa non era andato d'accordo. Vabbè, comunque era un papa, quindi voglio dire, poteva andare peggio. Ma insomma, personaggio straordinario, perché era un personaggio per qualsiasi cosa, aveva la battuta sempre pronta. Faceva il muratore e c'era lì in via Ricasoli, di fronte al Garibaldi, per capirsi, ok, al teatro Garibaldi, sì, dove è il Medioevo, sì, il Faldelloni, che aveva una malformazione, era gobbo, sicché la mattina si trovano tutto cambiato questo Faldelloni, e dice, dove vai, vado a farmi la fotografia perché fa la carta d'identità. Dice, falla del profilo, perché? Se no tu sei chiudi la carta. Questo per dire il personaggio com'era. Era così, era un personaggio che coglieva tutte le occasioni normali per fare la battuta. Era una persona straordinaria. Poi c'era sempre i soliti personaggi che potevano essere. Ecco, io ricordo un particolare, la famosa tenda, che poi tenda non era, sì. il Giorgio Lono si chiamava, era un rosso, c'aveva 3 o 4 ragazzi, non si sapeva perché lì. In via 20 settembre c'era una gara fra l'Alpino, il Matteo e questo Giorgio. Lo facevano una chiave a chi faceva più ragazzi. Era uno sport, sì, insomma, no, interessante, insomma. Perché io non potrei partecipare, per dire, però insomma, nel senso che vinceva quasi sempre Matteo, perché veniva sempre, gli piaceva bere, insomma, poveretto, quindi si addormentava sul pezzo. No, si addormentava, era sempre una battaglia dura. Ada, non mi dai soddisfazione. Mandiamo un saluto, sì, ad Ada, allora. Ad Ada. Quindi questo Giorgio aveva avuto lo sfratto e non aveva la casa dove andare. Che anni erano questi? Siamo super stati giù. Negli anni 60, primi anni, okay. 60, sì, 48, 60, che l'anno era? Forse un pochino prima. Io so con le date, la mia. No, vabbè, era tanto l'età. Per dare un'idea. L'età. E quindi gli avevano dato lo sfratto. Gli avevano dato lo sfratto a lui, non sapeva come fare. Il comune, allora, c'era il sindaco, mi sembra, Savino. Ah, guarda, su questo non posso aiutare. Allora dice, io che te sì, posso ma ora sta facendo un programma. Che te posso fare? Che te posso fare? Aveva messo con le coperte, aveva preso due loggiati. Il primo loggiato accanto alla cannella, perché c'era, certo, l'acqua. C'era l'acqua. La pulizia e l'igiene innanzitutto. Sì, poi dopo il resto c'era il vasino, il cantero, so, poi il resto non si sa andare alla fine. Comunque c'era sempre le chiocole. Certo. E ha fatto questa sceneggiata, è stato 3 giorni con la famiglia e il mobilettino del gas. E poi dopo abbiamo trovato casa, è andato a Bettolle. Ce lo siamo persi. Ascolta, ma noi abbiamo anche una foto che adesso pubblico su Piazza Alta, sulla pagina Facebook, che abbiamo fatto mentre venivamo in radio, dove te indichi uno scalino. Intanto la vado a pubblicare. Raccontaci un po'. Lo scalino, allora, chi è il protagonista? Intanto chi è il protagonista e perché? Allora, Piazza Alta dovete sapere che ha dei punti specifici, dove sia d'inverno che d'estate si sta meravigliosamente bene. Ok. D'estate il punto più fresco che c'è è in cima alla scalinata della torre. Perché c'è la corrente anche delle... No, non c'è tanta corrente, però c'è fresco. C'è fresco. C'è fresco perché viene a via Riccardi, c'è sempre. E lo scalino che io ho indicato in quella foto che tu pubblicherai, adesso si c'era, c'era il famoso Giorgino Giorgi che stava sempre qui in via Santissima Trinità numero 8, che era un mio coinquilino, stava al primo piano lui. E che particolarità aveva Giorgio? E lui aveva una gamba intera, avuto un incidente, non si sa per quale, un po' rigida. E era un mettino basso, allora stava con una gamba tesa e l'altra la gamba piegata, e aveva lo scalino, la misura precisa, per cui lui stava dentro, era in asse perfetto, stava a valore. Questo è un personaggio che, pensate, fumava 100 sigarette il giorno. No, aspetta, fermo, no, 100 sigarette ci vuole tempo. 100 sigarette il giorno. Ma poi se le faceva o le comprava? Le faceva. Arca, la faceva notte, questo di lavoro? No, lui lavorava all'agenzia dei tabacchi. Si portava il lavoro a casa o viceversa. Allora, la notte stava seduto nel letto, perché intanto non dormiva, e comprava quelle scatole che c'era 100 cartuccine. Ma infatti, se non mi sbaglio, all'epoca non è, per Giorgino non era un problema, era il problema era metterle nella scatola, non tanto farle. No, lui le faceva, le confezionava, le faceva 100 tutte infatti, le notti faceva 100 sigarette e durante il giorno le fumava tutte. Fra il giorno e la notte le fumava tutte. Questo è un record mondiale, credo. È morto a un'età avanzatissima, veneranda. Vedi? Non c'entrava niente, è morto. Ma il fumo secondo me compensava con l'aria buona di piazzale. Sì, sì, sì, perché stava lì, e quello era il punto migliore. E d'inverno il punto migliore era in fondo alle logge. In fondo alle logge, ok, sì. Che stava perché? Sempre l'ultimina lì con la seggiola, si spostava secondo il sole. Bello, quindi ti avevi come tirava, riferimento. Sì, sempre il sole. Noi ragazzi che ci importava di molto se è caldo e freddo. Certo. Anche perché all'epoca non è che si aveva calzoni lunghi, eh. Calzoni erano rigorosamente corti. E le scarpe? Le scarpe rifatte con quello che si poteva trovare. Ovviamente anche i pantaloni e le stoffe erano abbastanza lise, perché insomma era tutta una roba riciclata. La cintola non esisteva, c'erano le famose bretelle fatte con la stoffa incrociata di dietro. Talvolta, se non c'era la stoffa, una bretella sola con un bottone a sinistra. Eppure calzoni corti rigorosamente, sia d'estate che d'inverno. D'inverno pelava, allora c'era l'inverno veramente, ma le gambe un po' rosse, però noi ci portavamo avanti. Era una questione di circolazione. Sì, bene, esatto. Noi, Paolo, sempre più affascinante, ma ogni tanto un brano dobbiamo metterlo. Certo, e poi c'era anche la carambata dopo. Vai. Buon ascolto, a tra poco. Traffico. 20 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno. 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia di uscire. Chilometri al giorno, polvere e sole, andata e ritorno. 20 chilometri al giorno, per poi sentirti dire che non mi vuoi più vedere. Avevo le scarpe pulite e la camicia fresca di bucato, mazzo di fiore di prato, tutto andato sprecato. A 20 chilometri al giorno, breva l'andata, lungo ritorno. 20 chilometri al giorno, per poi tornare a casa e non pensare che te. Avevo le fiore di prato, ma tutto andato sprecato. Mike Patton, 20 chilometri al giorno. Incredibile, 20 chilometri al giorno. No, no, no, aspetta, prima di dire... Vabbè, dillo, dai. No, no, vai, vai, vai. È stato uno dei concerti più belli che abbia mai visto. No. Che bufala. È un disco interamente cantato in italiano da Mike Patton, è dedicato alle canzoni italiane. Ma chi era lui... Mike Patton? No, lui è un cantante importantissimo, sì. Vero Simone? Certo. Cioè, di quale gruppo ha fatto parte? Di nessuno, era un solista. Dai, sto scherzando, ma sarà, dillo te, dai Simone. Fate No More. Basta. E allora vieni qua. Ora, sembra quasi che tu le sappia le cose. Pensa che fare. Lui si è sposato in Italia con un'italiana, e di questo come non essere d'accordo questo con lui. Questo è logico. Questo è chiaro. E ha iniziato a sentire le canzoni italiane, se ne è innamorato e ha fatto un disco dove ha rifatto un po' tutte le canzoni, tra cui questa 20 km al giorno, che in realtà nell'originale era scritta da Mogol e Pino Massara nel 1965. Paolo Bernini, nostro ospite, che è un amante della musica. Piano piano ci avviciniamo al 1976. Ma adesso è il momento della carambata. Perché, caro Paolo, dopo 14 giorni che non lo senti, è qui con noi Riccardo. Pronto, Riccardo? Non ci credo. Pronto. Ciao, carissimo. Ciao, spieghiamo a tutti che Riccardo... Stai guardando l'aurora boreale? Spieghiamo a tutti che Riccardo è il figlio di Paolo, ma è che è a Milano, dove ha un locale e che vive là, sì. E che non chiama più il padre ormai da una vita. Non sto scherzando. Non ha bisogno di danari. Però non è... Finché ha avuto bisogno. È anche un gesto di cortesia non chiamare, sì, sì, se non hai bisogno. Riccardo è stato nostro ospite sempre telefonicamente nella scorsa stagione per un paio di volte. È un amico carissimo, ovviamente. E stasera però anche a lui chiediamo la sua esperienza a Piazza Alta. Anzi, prima voglio fare... Com'è il tempo a Milano, Riccardo? Milano, guarda, io adesso sono praticamente in Piazza del Duomo. Ah, ecco, no, se dicevi ero da un'altra parte era finito il programma. No, no, sono in Piazza del Duomo sotto la galleria Vittorio Emanuele, che non ha molto visitato, la galleria d'alloggiato del Monte Pio. Insomma. Bravo, bravo, beh, bravo. Sì. Vedi? Respiro aria di casa, ecco. Esatto, bravo. E piove? No, non sta piovendo, fa un freddo ladro, c'è la solita nebbia milanese. Sono qui in compagnia di Mike Patton, che vi saluta. Eh beh, esatto. Avete fatto... A che chilometro siete? Digli che lo ricordo quando faceva parte dei Fate No More. Allora, bravi, grande, una garanzia. Allora, tu sei nato nel 1970. E ai spiccioli. 5. E io lo so che sei stato in Piazza Alta fino al 1983. Esattamente. Ma so tutto ormai. Ho preparato, bravo, questa trasmissione in 4 mesi. Il mio biografo. Esatto. Raccontaci un po' i tuoi ricordi, perché abbiamo parlato molto degli anni 50-60 con Paolo, con tuo babbo. Però ci faceva piacere anche sapere qualcosa di più recente. Anche se eri un ragazzino, ma insomma, voglio dire, un ragazzino. Hai svegli. Lasciato il segno qui. Quindi ne parlano ancora sotto il loggiato del Vasario. Guarda, io i ricordi di Piazza Alta di quegli anni, ma penso siano un po' più o meno quelli di tutti. Il ricordo più bello sono le merende da Sincero in Piazza Alta, chiaramente. E quel meraviglioso mondo che iniziava a declinare, che era il Medioevo, di cui si è parlato la scorsa stagione. Io ci abitavo proprio sopra, la finestra di camera mia affacciava sul borghino di Via di Casoli, e io vedevo sto via vai in questo posto strano, e dicevo, babbo, conferma, dicevo, babbo, ma che c'è lì sotto? Niente. È vero, Paolo? È vero. Come non ti preoccupare, ancora non è l'ora. C'è una rimessa di legna, se ne è parlato anche di questo, della rimessa di legna, sì. Dice qualche sega c'è, però qualcosa del genere succedeva anche lì. E poi mi ricordo chiaramente ci abitava davanti a casa del professor Tatti, e quindi lì vicino mi ricordo col grande Alessandro, con la Valentina, che era in piazza a giocare con il nostro mai troppo celebrato Gigione, bicicletta, e quindi erano anni per me meravigliosi, l'arrivo delle prime BMX Beh, fantastico. Con la bicicletta col cambio, sai quelle piccole. Sì, sì, mi ricordo, mi ricordo. Vedi? Mi ricordo, feci una gita al fiume con Gigione proprio e non dissi niente a mio babbo per l'appunto. Ecco, infatti mi faceva un segno il babbo che. Me lo ricordo che tornai a casa un mese freddo. Quindi sono quegli anni che hanno segnato la tua vita. Sono gli anni che hanno segnato la tua vita, diceva Marcello, ma proprio in tutti i sensi. Sì, veramente, in tutti i sensi. Ho segnato la vita, ma un po' la schiena, devo dire. Sopra la vita. Montessori a base di cuoio funzionava. Funzionava. Senti, vuoi fare un saluto a Paolo, al tuo babbo che non senti da tanto tempo? Ma chi è? Fai galletto, amico. È meno male, e quindi anche se mi ha scignato, ma poi all'epoca funzionava così. Siamo venuti su tutti bene, relativamente, ma sì, insomma siamo venuti su con un tralcio di vite, diciamo. Volevo salutare chiaramente il babbo e ricordargli che lui ha preso qua un appuntamento a Milano, lo anticipo, il 22 di dicembre suonerà in un concerto dedicato a lui. Bellissima questa cosa. Si chiama la Stregone Night. Ma questo? Attenzione, lui suonerà con i migliori jazzisti milanesi. Fa segno che di non sapere niente, infatti, Paolo. No, e lui non sa ancora niente. Però il 22 di dicembre lui suonerà con i migliori jazzisti milanesi nella Stregone Night, una serata tributo dedicata ai 60 anni di Battaglia. Non ti dico che faremo la diretta, ma insomma, vorremmo anche essere. Potremmo anche essere presenti e raccogliere dei documenti filmati e audio per poi rimandarli. Assolutamente. Io non sono onorato, ma sarei felicissimo di avervi ospiti qua su, chiaramente. Guarda Riccardo, non è detto. Allora rimaniamo così, rimaniamo con questo appuntamento per il 22 dicembre. Noi per il momento ti ringraziamo. Hai fatto benissimo. E allora con Riccardo l'appuntamento è le prossime volte. Grazie Riccardo, ti saluta anche il babbo. Ciao. Vabbè. Il 23 lo chiama. Salutami Marci, che sento un po' lontano purtroppo per problemi del mio telefono, e quindi ciao simpatico amico. La trasmissione e i nostri cari radioascoltatori. Grazie Riccardo, alla ciao, prossima. Ciao. Allora un Paolo commosso qui per aver sentito di nuovo la voce del figlio dopo tanti anni. Tutto questa ma poi tra l'altro questa cosa bellissima, dopo la campagna di Russia, no, ma il 22 dicembre che suonerà con i più grandi jazzisti e lui milanesi, ancora non lo sa e non lo sapeva fino ad ora. Ora non sapevo niente io, perché Paolo è uno straordinario musicista, la batteria è lo strumento che diciamo lo esalta di più. Veramente ci sono dei musicisti assurdi. E è da questo forse il fatto, anche la scelta dello strumento, venendo a mancare la presenza del figlio, per picchiava sopra il tamburo. Ora facciamo un'immagine che non è propria. No. Diciamo che in quell'occasione se ne meritava. Sì. Basta. Sì, è stata solo l'unica. Sì, ecco. Sì. Esatto. Ora, siccome qui il tempo veramente scorre, io prima... Che facciamo, regista? Andiamo con un brano? Ma perché ha fatto no? Un accenno Spallucce. Io mi sento che... Sarà un altro brano strepitoso. Grande musica stasera a Piazzale. Bianca come il sale, il grano da crescere, i campi da arare, guardare ogni giorno se piove o c'è il sole, per saper se domani si vive o si muore, e un bel giorno dire basta e andare via. Grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno, saltare cent'anni in un giorno solo, dai carri nei campi agli aerei nel cielo e non capirci niente, aver voglia di tornare da te. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Ciao amore, ciao amore, ciao amore, ciao. Non saper fare niente in un mondo che sa tutto e non avere un soldo nemmeno per tornare. Luigi Tenco, ciao amore, ciao. Inconfondibile. No, una delle più belle canzoni della storia italiana, della discografia italiana, caro il mio Marzi. Era il 1967, che è palindromo nelle ultime due del palindromo. Delle ultime due del 1976. Ma ecco, il palindromo è quella. No, che poi non è palindromo, ho sbagliato, ho detto, ecco, una bischerata. Quella che pianta che ha messo in casa il palindromo. E gli effetti sono questi, gli effetti sono questi. Questo è appunto il più celebre successo di Luigi Tenco. Purtroppo ha avuto conseguenze per lui drammatiche, ma comunque rimane una canzone meravigliosa. Certo. Siamo ancora in compagnia di Paolo, ma prima vorrei Marzi... salutare Virginia e Milva. Ah, Milva, Milva, la pantera di Gombo. No, ma, Goro, di Goro. Goro, di Goro. No, di, scherzo, di Goro non confonde quello, no, che vende. Col di Goro che vende. Vabbè, ok, no, a parte le battute, grazie a tutti gli amici che ci stanno ascoltando ora in diretta e che lo faranno nei prossimi giorni nel podcast della nostra pagina Facebook Piazza Alta, o che guarderanno i filmati che sta facendo Paolo sul sul canale YouTube Piazza Alta. Devo fare tutto io. Volevi fare una domanda intelligente o la faccio io? Ma il silenzio in questo momento mi sembra d'obbligo. Allora Paolo, te la faccio io. Siamo arrivati alla fine, una domanda intelligente. Ma sforeremo, ma è importante. Raccontaci del mare dei Piazzaltini e della gita. Allora, il mare dei Piazzaltini ormai era noto a tutti, specialmente la domenica e il sabato, che era una cosa incredibile. Si partiva con le carrette da Foiano, con le carrette un po' di coperte, alle rampe del cimitero, che sarebbe all'est, alle rampe del cimitero, che era la piscina, era il mare dei foianesi, dei piazzaltini, perché noi si partiva anche presto per piedi al posto. E è lì che si imparava anche a nuotare, perché la scuola non c'era, quindi per imparare a nuotare c'era un sistema solo: buttarsi, la spinta, selezione naturale, o nuoti o affoghi. Però c'era un altro periodo che era meraviglioso, che si aspettava tutti, quando la gita scolastica. Dici e come veniva organizzata? Allora c'era Zerbino con un vecchio pullman con quelli che avevano quel muso davanti lungo. Sì partiva sempre in discesa per risparmiare 20 metri di calore. Sì, no, oh no, 20 metri di più, perché poi siccome la gita si svolgeva alla selva, quindi un tragitto lungo. Beh, ma alla selva qui Bettolle? Sì, no, prima di Bettolle. Sì, un po' prima, quindi 5 chilometri? Sì, ma anche forse, più o meno. E sì. Cioè, non dormivi la notte prima? No, no, in gita. Te pensa, perché partiva sempre in discesa, perché tutta la via di Sinalunga. Certo. Evitava anche la salita del andavi giù a dritto con un polverone, perché ovviamente non era asfaltata, quindi questa era la nostra gita su, tutti meravigliosi, proprio si godeva come maiali, ecco. Tanto per dare una anche perché poi quando sei lì c'era sempre qualcosa di interessante. La gita è rinomata per queste cose, Piazzaltini per queste cose sono stati sempre. Ma ora mi viene una domanda: se ti viene a un certo punto hai lasciato Piazza Alta? Com'è? Come non è? Sì, a un certo punto ho lasciato Piazza Alta, perché credo di essere stato uno degli ultimi a lasciare Piazza Alta, dei vecchi amici, perché è nato Riccardo e aveva delle necessità. C'era delle esigenze e ci siamo trasferiti un po' fuori. Però sono rimasto sempre legato. Il tuo cuore è rimasto sempre rimasto, anche perché poi ci ho lavorato in Piazza Alta. Certo, è vero, ricordo. Fino a ai nostri giorni, per cui io di Piazza Alta non è che ho un buon ricordo. Per me Piazza Alta è la vita, insomma, ragazzi. Chi ha vissuto qui? La vita è Piazza Alta. Io direi che con queste parole qua e commossi, si commossi, l'amore, commossi anche l'amore cosmico. Direi che possiamo concludere questa puntata dove abbiamo fatto veramente un tuffo nel passato. Abbiamo del pizzicato nelle un paio di radici, nelle radici di Foiano, di Piazza Alta. Ma poi come funziona? Via Santissima Trinità numero 8. Tengo potrebbe essere lì, sono nato, un luogo di pellegrinaggio, uno spin-off di Piazza Alta, Via Santissima Trinità numero 8. Poi, come tutte le volte che ci ritroviamo a fine puntata, ci diciamo che ne servirebbero altre 5 per raccontare tutto. Ci riproponiamoci di farne, chissà, in futuro altre. Per il momento ti ringraziamo, tu, Paolo. Paolo, preparati chiaramente altri aneddoti. Sì, ma figuriamoci, no, con l'arciprete. Grazie ancora quindi a Paolo Bernini. Grazie a tutti. Grazie voi per essere stati con noi. Ci ritroviamo giovedì prossimo, perché abbiamo già in cantiere una puntata molto interessante. Assolutamente. Ma non sempre diciamo parlando niente di giovani che sì hanno fatto un pezzo di storia di Foiano, che la stanno facendo tuttora, ma non diciamo oltre. Ma se, saluta, se lo volete sapere, ci ascoltate giovedì prossimo. Buon saluta ascolto. Come sai fare, ciao simpatici amici. Ciao. Giovedì, ciao. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Marzi ed Enzino, alla parte tecnica, conduzione e regia Simone One. Ai filmati videomaker Paolo Aulo.